Dal mondo della scuola, programma a cura dell'ufficio di pastorale scolastica. Nuova puntata dal mondo della scuola, la metà di maggio, quindi a circa un mese, anche meno, dal termine delle lezioni scolastiche. Ancora ben trovati da Mirko Cavallin. Ritroviamo ospite fisso, quasi fisso di queste due puntate, Giampaolo Alimede, ben trovato. Ben trovati tutti quanti, ospiti e ascoltatori. Con altri tre giovani, la settimana scorsa abbiamo sentito le esperienze e le aspettative di Dennis Camilla Giovannella, adesso restiamo tra la terza, la fine di un percorso formativo, e la classe quinta. Benvenuta ad Alessia, ciao. Ciao a tutti. Benvenuti anche a Nicolas e Damiano. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ripartiamo con le stesse domande che abbiamo fatto la settimana scorsa agli altri vostri compagni, tornando quindi all'epoca della terza media, metà della terza media, quando avete fatto la scelta verso la scuola superiore. A ragion veduta, ora verso la fine di questo percorso, come giudicate quella scelta, Alessia? Beh, sono molto felice della scelta fatta perché ho seguito le mie passioni. Sono sempre stata appassionata fin da piccola della fotografia e quindi ho portato avanti questa cosa e voglio portarla avanti per un futuro. Tu fai il percorso grafico all'Istituto mm-hmm. Madonna del Grappa, siete tutti di questo istituto però facendo percorsi diversi. Nicolas invece in terza, in quale percorso? Sono nel percorso amministrativo segretariale e anche per me è stata una scelta positiva, anche se non è stato molto facile decidere a quale indirizzo. Cioè, quale indirizzo scegliere? Quale indirizzo scegliere? Quante opzioni ti eri messo davanti? E diciamo che io non ero convinto, non ero sicuro di quello che volevo fare, quindi avevo scelto questa opzione perché comunque dava tanti sbocchi e comunque a mio parere serve anche nella vita, perché comunque come ragionamento serve. Damiano, che sei in quinta invece del liceo Liceo della comunicazione, che è un scientifico che ha come materie di opzione quelle proprie del sociale, quindi psicologia, pedagogia e sociologia. 5 anni fa, quando e più, quando hai fatto quella scelta? Beh, mi sento notevolmente soddisfatto perché io sono sempre stato un po' interessato, ecco, a quest'ambito del sociale e volevo, diciamo, ecco, conoscerlo al meglio e poterlo scoprire. C'è Giampaolo che sta facendo dei segni, dei più come nel registro di classe, che non sono sì. I voti, ma sono... No, è perché ogni scelta è diversa da quelle degli altri e quindi anche in questo caso è interessante registrarle per così, per questione anche di statistiche se vogliamo, no? Però anche qui ritroviamo delle cose interessanti, le passioni che sono il movente principale e anche diciamo le difficoltà della scelta, perché non tutti hanno delle passioni, molti genitori dicono chiaramente mio figlio non ha nessun interesse, non ha nessuna propensione, cosa devo fare? Ecco, quindi in questo caso i nostri ospiti della puntata scorsa di questa in prevalenza hanno seguito le loro passioni. Io sono fermamente convinto che ci sono, il problema è di scoprirle. Ecco, chi ce la fa è fortunato, chi non ce la fa lo scoprirà strada facendo. Alla fine questi ragazzi, sia nell'un caso seguire le passioni, sia nell'altro ho trovato delle difficoltà, alla fine però ho scelto, hanno dato un valore e un giudizio positivo del loro percorso e questa è una cosa molto molto bella. Parliamo delle difficoltà, problemi che nel corso degli anni, insomma, la scelta l'avevate fatta magari con più o meno convinzione, che difficoltà ci sono state, come le avete superate e chi eventualmente vi ha aiutato? Alessia. Beh, difficoltà ce ne sono state perché a volte tendi a sottovalutarti troppo e ad abbatterti vedendo lavori magari di presentazione che ti fanno vedere i professori prima di un lavoro e quindi vedi questi bei lavori e quindi ti abbatti un po', però vabbè, ti aiutano tanto perché loro sono i primi a credere in te a partire dai genitori da casa e quindi ti danno una buona carica per insomma continuare e dare il massimo per quel lavoro, insomma. Bene, passiamo a Nicolas. Allora, diciamo che ci sono state delle difficoltà iniziali, più che difficoltà erano delle mie paure magari, nell'approccio con dei nuovi compagni che comunque non conoscevo e non sapevo niente di loro. e in ambito scolastico non ci sono state particolari difficoltà, però comunque i professori ci seguono bene e quindi secondo me anche quella lì è la motivazione. Cioè non penso che troveremo altri professori che ci seguono così. Beh, non farete più le scuole superiori, perché le... se doveste fare ancora le scuole superiori sarebbe... Poi c'è il dito puntato, Giampaolo, lo tieni lì fermo, sentiamo Damiano sulle difficoltà. Beh, io inizialmente frequentavo la vita del seminario e quindi diciamo ho avuto un po' di problemi, che era il fatto di conciliare quello stile di vita con anche quello della scuola. Ho lasciato 2 anni fa questo cammino, e tuttavia ora diciamo c'è ancora qualche difficoltà, ma cerco sempre di affrontarla al meglio. Quel dito si riferiva? Il dito si riferiva al fatto che i professori, nella volta scorsa dicevamo i professori quanto incidono, questa volta abbiamo la risposta, incidono molto diciamo nella carriera scolastica, perché l'espressione "i professori credono in me", così come i genitori tra l'altro, è fondamentale come sostegno alla motivazione. Questa è la prima considerazione, quindi dare la fiducia sia da parte della famiglia sia da parte della scuola ai ragazzi è fondamentale. Quando un insegnante dice "tu non ce la farei mai", quello là la motivazione la mette sottoterra, sappiamo dove, insomma, ecco. Bon. Mentre Nicolas ha detto una cosa molto interessante circa i professori. Allora, la scelta che faranno questi ragazzi che fanno il CFP di proseguire dopo l'anno di qualifica per conseguire la maturità indica 2 cose. Uno, il desiderio e il fatto di scoprire, cammin facendo, una propria vocazione futura. E quindi mette in risalto la scuola come ambiente di maturazione e non tanto come scuola di serie B o di C, come è considerata nell'opinione pubblica. Per cui il CFP si dimostra una volta di più un percorso maturativo molto importante e molto interessante, proprio perché per il tipo particolare di scuola gli insegnanti dedicano una cura particolare ai loro studenti e io credo, per sentito dire, questi ragazzi sanno da chi li ha preceduti che nelle scuole di Stato che faranno negli ultimi 2 anni non ci sarà lo stesso rapporto che c'erano nei 3 anni precedenti. Mi spiego meglio, molto spesso ritornano a scuola dicendo "nella scuola di Stato non è come nel CFP", e qua mi fermo perché dovremmo aprire un'altra puntata con i professori. Ce la riserviamo per l'inizio dell'anno prossimo, intanto facciamo la prima pausa e torniamo insieme tra poco. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica. I got the feeling that dal mondo della scuola. Programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica. Seconda parte di questa puntata orientativa dal mondo della scuola, o meglio, guardando un po' il passato, perché abbiamo ospiti due ragazzi di terza, Alessia e Nicolas, che stanno concludendo il loro percorso di formazione professionale in vista forse di un biennio aggiuntivo, Damiano invece che è in quinta e potrebbe avere davanti le porte dell'università. Del futuro parleremo nell'ultima parte, adesso parliamo delle soddisfazioni, dopo aver detto poco fa delle difficoltà. Soddisfazioni maggiori scolasticamente parlando o ricordo più bello di questi anni, Alessia? Beh, la soddisfazione maggiore è vedere i risultati dalla prima alla terza, come cambi te il modo di pensare e di lavorare e soprattutto portare a casa dei buoni risultati, rendere felici i genitori e soprattutto vedere gli insegnanti che apprezzano il loro lavoro nel formarci. Quindi soddisfazione a tre, la tua, gli insegnanti, i genitori, il massimo della vita. Il massimo della vita. Nicolas? Allora, la mia soddisfazione più grande è stato il mio cambiamento, poiché sono uscito appunto dalle medie anch'io, per fortuna, e adesso invece qui mi trovo molto bene. E il rendimento è migliorato. Sì, è migliorato molto. E un'altra soddisfazione anche le persone che ho trovato, che comunque ancora mi stanno vicino e sono contento di questi rapporti. Per persone intendi i professori che citavi prima, sia o anche i compagni? Professori che dei compagni con cui ho instaurato un bel rapporto. Quindi in generale, diciamo, il clima che hai vissuto. Sì, è una soddisfazione complessiva non episodi specifici. Damiano? Invece per me, diciamo, le soddisfazioni maggiori, citerei inizialmente i voti belli che prendo e che grazie anche sia all'aiuto mio, grazie alla mia fatica, anche quella con i miei compagni di classe. E inoltre vorrei sottolineare che anche appunto voglio ottenere questi voti non solo per me ma anche per gli altri, perché voglio farmi valere e anche mostrarmi quanto posso essere capace. Spieghiamo che non è che copiate. No, assolutamente. Okay. Perché detta così poteva sembrare, insomma, una collaborazione un po' sottobanco. Non è così, Giampaolo. Sti ragazzi qua, gli ascoltatori che sono i nostri fedeli, diciamo, utenti, si accorgeranno che sono diversi da quelli della puntata precedente. Hanno un qualche cosa in più. Hanno parlato dei risultati scolastici, i voti che prendo, e a me piacerebbe che dicessero i voti che mi sono conquistato. Vabbè, comunque, vorrei fare una domanda a mia volta, quanto vi è costato prendere questi bei voti? Perché ho l'impressione che il bel voto mi incentiva a studiare di più e quindi se studio di più faccio meno fatica, bravo. Se invece uno studia poco, che voti prenderà secondo voi? Voti negativi. Se prende voti negativi studierà di più? Beh, no, perché non è soddisfatto di quelli dei voti, ecco, che prende. Quindi la fatica alla fine, quando diciamo, o i professori dicono, bisogna far fatica per conquistare qualche cosa, è vera, lo dicono i ragazzi, non lo dicono più i professori. Quindi direi che mi è piaciuta queste tre campane che suonano la stessa suonata, che hanno tutti dei bei voti, ma hanno tutti quanti dato una buona dose di impegno. Ecco, quindi senza impegno non possiamo pretendere. A proposito dello studio, ricordo sempre le puntate dell'inizio anno in cui ospitiamo i ragazzi di terza media, no? Che temono sempre, passando dalla terza alla prima superiore, di studiare di più, e lo dicono sempre quelli di prima, confrontando con l'anno precedente. Voi potete confermare questo ricordando quanto studiavate alle medie, quanto poi o come avete cambiato lo studio, Alessia? Beh, alle medie non studiavo molto, anch'io come gli altri sono andata fuori per grazia ricevuta, sì, diciamo. Sì, proprio, ecco. Una bella spinta, non ero motivata e ovviamente cambiando scuola, andando a fare una cosa che mi piaceva da molto, ho iniziato a studiare e sto studiando tuttora perché mi interessa moltissimo. E quindi c'è la motivazione, la esatto. Base. È cambiata anche la quantità e il modo di studiare? Sì, assolutamente, ci presto più tempo, più attenzione, mi informo ulteriormente usando anche internet, biblioteche, libri, insomma. È una fatica ma non è un peso. Esatto, esatto, cioè bene. È uno studio, sì, studio volentieri. Bene, Nicolas? Allora, anche io alle medie studiavo pochissimo però ci tengo a dire che secondo me è fondamentale anche se quello che studi ti piace o no, cioè se fa parte di te quello che studi, perché se io devo studiare una cosa noiosa, magari ho anche meno voglia di studiarla. Se invece studio qualcosa che mi piace, che mi dà motivazioni, o anche per un futuro lavoro, quel che sarà, lo studio più volentieri. Un esempio di una cosa noiosa e faticosa da studiare? Magari delle cose di matematica, magari a volte penso che magari non servono a niente nella vita. Comunque dopo servono perché ti danno dei ragionamenti che dopo ti servono. Però magari preferisco studiare qualcosa di attualità o che, di attualità, oppure che fa parte anche del lavoro che dopo voglio fare. Ad esempio, la materia che ti viene meglio? A me, per dire, piace tutto quello che riguarda le banche, quindi anche i rapporti esteri, i cambi, tutte quelle cose là che stiamo facendo anche in questo momento. Quindi la parte teorica, però non ti piace tanto la matematica. La matematica non più di tanto, quando si parla di equazioni o di cose più complesse, magari perde di significato perché al di fuori nella realtà non le troviamo, Non le trovi. anche se poi alla fine servono, Hanno perché comunque. un'utilità. Damiano, che invece fa il liceo della comunicazione. Io ribadisco che il periodo delle medie è stato un po' un periodo buio, perché di voti positivi ne ho visti Medioevo della un vita. medioevo, un oscurantismo, esatto. Vissuto, prendeva sempre voti negativi e non ero molto soddisfatto. L'unica materia che mi piaceva era un po' storia, però tuttavia dopo con la scienza della comunicazione che ho sperimentato appunto in questi 5 anni, devo ammettere che ho provato maggior soddisfazione, maggior piacere, maggior interesse specialmente, e che mi ha portato quindi a proseguire. È cambiato il modo, oltre che la quantità, ovviamente. Certamente. Cioè. Devo ammettere che alle medie si aveva un quantitativo oltre che minore, era anche poco di meno difficile. Devo ammettere, era meno difficile. Tuttavia, devo ritenere, devo dire il fatto che è molto importante l'interesse, perché quello lì è principale, anche sopra la difficoltà. E quindi questo può portare una persona anche a impegnarsi di più, ad affrontare più pagine da studiare e anche più argomenti. Una montagna più alta, avevamo citato Messner da scalare, no? Ecco. Sicuramente, pensate che andare a 8.000 metri senza le bombole deve essere una roba terribile, eppure ce l'ha fatta. Questa dunque è la considerazione di Giampaolo Olimede, col quale ci troviamo dopo l'ultima pausa insieme ad Alessia, Nicolas e Damiano per guardare al futuro. Dal mondo della scuola. Keeps us alive. Ultima parte di questa puntata dal mondo della scuola, dedicata all'orientamento con Alessia e Nicolas, che sono di classe terza, Damiano che è di classe quinta. Tutti avranno un esame tra poche settimane, per la qualifica Alessia e Nicolas, invece per il titolo di diploma per Damiano. Tra qualche settimana dunque non avrete più lo stesso ambiente scolastico, finirà un capitolo della vostra vita che vi ha dato soddisfazione, quanto abbiamo capito dai vostri racconti poco fa. Che sentimenti provate in vista di questa porta, insomma, che si chiude, di questo percorso, Alessia? Beh, io ho molta paura di lasciare tutto quello che ho costruito in questi 3 anni lì, in quella scuola, tutti i rapporti, e comunque sì, mi ero affezionata, era un po' come una famiglia, perché sì, arrivi, li trovi là e sai che insomma la giornata la passerai con loro, però anche positività, perché mi si aprirà un futuro nuovo e potrò conoscere nuove persone, fare nuove esperienze, quindi spero che andrà tutto bene. Nicolas? Io provo due sentimenti principalmente, nostalgia, perché comunque io sono una persona che si attacca tanto ai luoghi dove sta e anche alle persone, e quindi sono sicuro che mi mancheranno moltissimo tutti i miei compagni, i professori e anche la scuola stessa. E curiosità invece per il futuro, perché comunque sono una persona curiosa e insomma voglio vedere che aspettative mi può offrire la nuova scuola e i miei nuovi compagni, i miei nuovi professori. Già hai detto un po' del futuro, che sentiremo tra poco. Damiano? Io principalmente provo un senso quasi di libertà, nel senso che non vedo l'ora di concludere quest'anno apposta per dopo poter dire tutto ciò che era da scuola dell'obbligo ormai l'ho concluso e ormai scelgo, diciamo, proprio quello libertà che... Libertà e liberazione, ecco. Allargando la prospettiva invece, prima di dire quale sarà il vostro percorso, il desiderio più grande che avete dentro di voi, al di là anche della scuola? Beh, io sono una persona che sogna molto, molto la testa tra le nuvole, e il mio sogno sarebbe di lavorare in una rivista come fotografa, qualsiasi tipo di rivista, comunque cioè portare avanti la mia passione, ma soprattutto sì sul campo dell'editoria, insomma. E sì, spero si possa avverare, comunque anche se non sarà su quel campo, comunque sempre nell'ambito fotografico, magari diventare un fotografo freelance o di giornalismo, insomma, vari campi. Le prospettive sono varie. Nicolas? Diciamo che la mia prospettiva sarebbe più che altro riuscire a trovare un buon lavoro, che comunque in questo periodo non è facile, però secondo me bisognerebbe pensare positivo, perché comunque se una persona ha talento e ha voglia di studiare, di mettersi in pratica e di fare, può fare quello che gli piace, insomma. Quindi tutti possiamo trovare un lavoro che ci piace, un lavoro che ci dà soddisfazione, secondo me. Damiano, dopo la liberazione? La mia principale prospettiva è quella di fare domanda per compiere un anno di ferma prefissata con l'esercito italiano, perché voglio appunto proprio sperimentare questa esperienza con l'esercito, e ritengo che sia molto importante per me e molto utile. Quella che era la NAIA obbligatoria, Si chiama, come si chiama? Ferma? VFP1, che sarebbe ferma prefissata per un anno. Ah, bene. Poi si può decidere se prolungarla per 4 anni. E se rimanere, bene. Beh, bella puntata. Allora, qualche anno fa ai ragazzi di terza media avevamo chiesto: la parola scuola cosa ti fa venire in mente? E qualcuno ha detto prigione. In questa puntata, 5 anni dopo, non è lo stesso personaggio, dice: io vivo l'uscita dalla scuola come un qualche cosa di liberatorio, quindi prigione e libertà si assomigliano. Però le cose interessanti sono la curiosità verso il futuro, che è logico, perché essendo giovani non potrebbe essere diversamente, e anche la scuola come una famiglia, quindi la famiglia e la prigione sono due, diciamo, figure che ricorrono in maniera molto interessante. E poi volevo dire alla Alessia che, siccome nella puntata precedente c'era la giovannella che voleva fare la giornalista, se si contattassero magari una potrebbe fare il giornale scritto e l'altra potrebbe fare il giornale illustrato, magari in società. Ci mettiamo in proprio. Esatto, una bella società. Allora, qualcosa avete già accennato nel vostro racconto, cosa farete dopo la maturità o la fine o il raggiungimento del diploma professionale e come pensate di raggiungerlo questo diploma, cioè con quale risultato? Io alla fine di questi 3 anni vorrei proseguire fino alla maturità e proseguire ulteriormente frequentando un'università. Mi sono già informata, anche se insomma di tempo ce n'è, però mi prendo per tempo per valutare tutto e finita l'università spero di trovare qualcosa. Ero anche intenzionata a fare qualche esperienza all'estero per insomma scoprire cosa c'è fuori dall'Italia, insomma. Come pensi di uscire dall'esame? Non ho un voto preciso in mente, ma spero molto bene, cioè darò il massimo per dare veramente il massimo, avere un bel voto per presentarmi bene alle future scuole. Nicolas? Io sicuramente alla fine di questi 3 anni continuerò fino ad aver raggiunto il diploma di 5 anni, maturità, e dopo è da valutare se andare all'università o no, perché comunque se ci vado... Cioè io non sono una persona che si accontenta di poco, se comincio una cosa voglio uscire a pieni voti e comunque cioè, comporta anche un costo andare all'università e quindi secondo me bisogna anche pensare, cioè di impegnarsi veramente se si fa questa scelta. Che voto pensi o a quale voto aspiri? Beh, io comunque mi impegnerò al massimo, non lo so perché l'esame è difficile, si fanno una prova dietro l'altra, quindi non è come fare una verifica normale. Però io spero almeno 80. Bene, segna 80 Giampaolo. Damiano? Io inizialmente spero di passare appunto questo esame di maturità col 70, sono umile. Ecco, diciamo, sento di avere delle difficoltà con anche le simulazioni che abbiamo fatto in questi ultimi periodi e ritengo quindi di non poter ambire all'80, ma ecco, spero ecco il 70, sì. E sulla prospettiva hai già detto, insomma, verso l'esercito. Breve considerazione finale con Giampaolo. Cosa c'è da dire? Io lo lascerei agli ascoltatori perché mi pare che quello che è venuto fuori non abbia bisogno di commenti. Sono tutte riflessioni molto positive, molto ottimistiche anche, ma fa parte della gioventù esserlo. E quindi direi che è una puntata di grande soddisfazione. Ringraziamo Giampaolo Alimede per essere stato con noi, ci ritroveremo, credo e spero, con l'inizio dell'anno scolastico 2014-2015. Buone cose. Buone cose anche a voi. Grazie ad Alessia, Nicolas e Damiano, in bocca al lupo per l'esame e per grazie tutto il resto. Grazie mille. Grazie mille a voi. Grazie mille. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica.